La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь? Voci e pensieri per Barbara Alberti. Ho ricevuto la lettera di un giovane scrittore, ancora inedito, e forse che non ha neanche un'opera pubblicabile, devo dire, un po' antipatico. Di quelli che pensano che fanno schifo tutti, meno loro. Scrive: è ridicolo che lei si ostini a parlare di letteratura italiana contemporanea come se ancora ci fosse. Non sarà una brava donna come lei a convincermi che esista ancora quella città morta. Dice che gli scrittori non esistono più, naturalmente esiste solo lui, la solita costruzione paranoica, e si firma uno snob come se fosse una qualità. Ora, caro snob, dire sono uno snob è come dire sono uno pieno di complessi. Lo snob è una persona volgare. Lo snob crea classifiche per nascondere la propria mediocrità, da cui ossessionato, e crede di cavarsela così. Lei usa quell'espressione che la definisce: gli scrittori italiani sono tutti mezze calze. Espressione che usano solo loro, che non voglio neanche dire la parola, e che serve per riconoscerle, queste famose mezze calze. Ma poi che misura è? Quando mai uno bravo si sentirebbe una calza intera? Voglio dire, non riesco a capire. Poi dice, almeno si limitasse a parlare di scrittori poco noti. Ma legge spesso brani di Pennacchi, quindi anche lei è sensibile all'ufficialità e al premio Strega. Allora, caro snob, io parlo degli autori che mi piacciono, che trovo importanti, conosciuti e sconosciuti. E poi, se per una volta un premio serve a scoprire uno scrittore immenso e fa vincere un capolavoro e quel capolavoro vende milioni di copie e viene pure tradotto in mezzo mondo, a me sembra una circostanza poetica meravigliosa e una grande festa. Lei crede di essere originale, snob, ma oh, io è da quando sono nata che sento celebrare i funerali della letteratura ed è una mania da beccamorti. Non è morta la letteratura italiana, è morto lei, che pensa di sapere tutto e non legge niente, e ha 35 gradi di temperatura corporea. Guardi, se ha ancora un alito di vita, se lo legga Pennacchi, che è l'opposto di lei. Autenticità e simpatia assolute. E guardi una qualunque sua apparizione su YouTube e si troverà davanti il contrario di lei, ovvero il contrario dello snob, un uomo elegante. Lei non si fida dei premi? Ma neanch'io. Però questa volta è andata bene. E in canale Mussolini c'è una rivelazione letteraria che segna il nostro tempo. Io, quando l'ho aperto in ritardo, e per pregiudizi non dissimili dai suoi, mi trovo in mano l'Iliade. Qualcosa che ti sommerge, un'ampiezza mai veduta, né come linguaggio né come narrazione. Attraverso le vicende della famiglia Peruzzi, in canale Mussolini c'è il fascismo, c'è la guerra, ci sono i massacri nelle colonie, e la grande fame, e soprattutto la migrazione per la bonifica dell'Agropontino e questa lotta epica con la natura, con la grande palude, l'inferno in terra, e ti ritrovi nella frontiera americana, nei poemi cavallereschi, nella Bibbia. Ti trovi nel mezzo di una grande lezione di storia, scritta però da un mitografo, da un visionario. Ti trovi in mano un poema fondatore, con un'audacia di linguaggio e una potenza di narrazione che rendono tutto vicino e altissimo. E poi una cosa che mi ha stupito, perché gli scrittori italiani, anch'io devo dire, conosciamo le cose, gli oggetti, per sentito dire. Qui c'è una intima conoscenza delle cose, con una precisione che è amore per le cose. La terra, gli strumenti di lavoro, la struttura delle case, la toponomastica, le bestie. E la storia d'amore fra Pericle e Armida sono i nuovi Renzo e Lucia, ma molto più veri che i Manzoni. Qui tutto è vivo. E poi questa abilità demoniaca di rendere prossimi e quotidiani gli eventi della storia, far parlare in dialetto Hitler e Roosevelt. E tutto questo anche facendo ridere. Tanto. E poi quel che colpisce in questo libro, così violento, è la pietà. Per gli uomini, le cose, gli alberi, le vacche, per chi ha ragione, per chi ha torto, la tenerezza, Il giovane che torna dalla guerra e per prima cosa, prima che dalla madre, va a salutare la vacca. E questo amore descritto con passione, con pudore, questa capacità di sentire i minimi dolori, quelli che García Lorca chiama i dolori delle formiche. E poi un libro di speranza, non razionale, perché la vita è più forte. La vita in quelle parole ricreate dal libro. Io ho provato una gratitudine senza fine. E davanti a questo Mar Rosso, a questa sovrabbondanza di grazia, lei arricia il naso. E poi l'intera opera di questo autore è una rivoluzione, ma io non la voglio convincere. Se lei è più contento disprezzando tutti, ma caro snob, resti pure nel suo sarcofago e riposi in pace. Lei non deve sentirsi minacciato se qualcuno è bravo. La bellezza non ci minaccia, ci accoglie. La bellezza è di tutti. Un libro così non è fatto per misurarsi. Se lo leggi è tuo, sei tu e diventi bello. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, credo nel matrimonio, sono molto religiosa, ma non ho saputo resistere all'amore e alla passione. Ho un amante da 3 anni. Mio marito viaggia per lavoro e sono spesso libera. Ci sono stati weekend di fuoco, notti ubriacanti. Ora però mi sto poco a poco snebbiando e mi sono venuti molti rimorsi verso quella brava persona che è mio marito. E gli scrupoli religiosi che avevo soffocato tornano a farsi sentire. Mi sento in peccato, mi sento sporca. Una cosa mi ha fatto capire come sto cambiando. Il nuovo vicino, un tipo affascinante, ha provato a corteggiarmi e io l'ho messo a posto bruscamente, senza un briciolo di civetteria. Vorrei andare a confessarmi, ma so che prima devo aver deciso fermamente di lasciarlo. Se no, che ci vado a fare? Lauretta. Non sei pentita, Lauretta. Tu sei stufa e ti piace il vicino. E anche respingerlo è stata una forma di civetteria. Tuo marito, ancora una volta, come spesso in queste lettere, non c'entra niente. Lo tiri fuori dall'armadio, ben piegato, odoroso di naftalina, solo quando ti fa comodo. Il tuo pentimento mi ricorda Ernesto, il delizioso romanzo di Umberto Saba che uscì postumo, dove l'adolescente Ernesto, che poi è lui da ragazzino, ha una relazione con un bellissimo portuale e alla quale si abbandona con spensieratezza. Lui è un ragazzino di sentimenti pagani, sensi di colpa, non sa neanche cosa siano e quindi vive molto lietamente. Però, appena stufo, lui, come scusa per lasciarlo, diventa una specie di un solenne moralista e gli dice: il Dio castiga, chiamando il creatore a testimone della sua volubilità di ragazzo. Niente, cara Lauretta, è ipocrita come il desiderio. Charmanca, charlatanca. Con mia infinita meraviglia, continuano ad arrivare lettere di ragazze innamorate di un uomo sposato. Questa laida seduzione non finirà mai. Io credevo ai tempi del divorzio che le corna sarebbero sparite, invece fioriscono dovunque. E questa è tratto da un mio libro, che però si riferiva ad una lettera che avevo ricevuto per il settimanale A. Il libro si chiama Il ritorno dei mariti ed è la storia di questa donna che adombra il mio mestiere di risponditrice di lettere amorose, che è una merceria dove tutte le donne vanno lì, non comprano niente, però raccontano tutti i fatti loro. Entra Leslie, ha il naso a punta, il seno, lo sguardo e il culo a punta. Sembra fatta apposta per pungere gli uomini e difatti è corteggiatissima. Però capita sempre con quelli sposati. Destino o mania, appena c'è uno che le piace, infallibilmente scopre che è l'anello al dito. Così viene in negozio a scagliarsi contro la loro vigliaccheria, doppiezze, irresolutezze, eccetera. Ultimamente però un certo Max, sposatissimo, le aveva preso il cuore. E lei era diventata più a punta di prima, come un'antenna che capti la felicità. Ma è finita male anche stavolta. Questa è Leslie che parla. Eravamo nel suo pied à terre, sul Tevere. Lui era seduto, nudo, davanti alla finestra. Dietro si vedeva il fiume. Parlava dolcemente, a cantilena, come chi dice il rosario, come fa ogni volta. In ufficio non mi rispettano, lo stipendio è una miseria e non fanno che detrarre. Il resto se lo mangiano le tasse. Non ho neanche i soldi per mettermi i denti. Ti sarei accorta che me ne mancano 2. Mia moglie me l'hanno imposta i miei e mi è stata antipatica dal primo momento. Si è portata dietro pure la madre. Fanno alleanza contro di me. Io sono un estraneo in casa. Mi mettono contro i figli. Sono sempre stato sfortunato. Il più saggio è mio padre. Lui è un amante che lo capisce. Ascolta tutte le sue disgrazie. Lo consiglia. Lo consola. Si vedono una volta alla settimana da 38 anni. Mia madre lo sa, ma chiude un occhio, perché lui dopo è più tranquillo. No come mia moglie, che se ci becca ci ammazza tutti e due, pure. No, questo è il mio commento, Leslie continua. Io ero inginocchiata davanti a lui, con la testa fra le sue gambe. Non potendo parlare, gli avevo dato qualche pizzicotto discreto a significare «E dai, ti pare il momento?» Ma lui continuava e si lagnava. Allora mi sono alzata di colpo, smettendo quella cosa che, modestia a parte, mi stava venendo benissimo, e gli ho detto «Finalmente ho capito perché mi tieni la bocca occupata, così non ti posso rispondere». «Ma come, mi lasci così?» «Non ti voglio ascoltare per 38 anni, una settimana mi è bastata». «Egoista». Ho aperto la porta. «Troia», Delia sospira, cioè la padrona della merceria. «O sono mammoni o sono moglioni, non si scappa». «Ah, ma adesso basta», dice Leslie. «Sì, basta con gli sposati», risponde Delia. E Leslie, «No, basta coi piagnoni». È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. «Povero figlio mio, non sono mai stata una madre gelosa. Il mio ragazzo ha potuto godere di ogni libertà fin da piccolo. Ma come non disperarmi, o come dice lui, farmi gli affari suoi, quando lo vedo preso al laccio da una ragazza furba che ha vissuto facendosi mantenere da ricchi panzoni e ora si è attaccata a lui, che però non ha i mezzi per i lussi che lei pretende. E lei credo che abbia degli amanti occasionali, naturalmente facoltosi. E lui chiude un occhio. Io no, però. Li ho tutti e due bene aperti sulla sua rovina e sento una trafittura al cuore per ogni umiliazione che deve subire per causa di quella. Non sono una madre gelosa, sono una madre amareggiata che lo vede struggersi senza poter muovere un dito perché lui a me non dà retta. È come in Manon Lescaut, dove mio figlio è il cavaliere des Grieux, che viene acchiappato da Manon e rinuncia a tutto per seguire quella creatura corrotta. Io per lui non sono niente, sono l'ultima lettera dell'alfabeto e con ragione mi firmo Z. Senti Z, tu dici troppe volte povero parlando di questo figlio. Povero, povero, come si dice dei morti. Come se sul suo nome si fossero già uditi i rintocchi funebri. E poi troppi lacci e troppi accalappiamenti vedi nelle donne, Z. Mi colpisce il tuo riferimento al romanzo Manon Lescaut, che non è la storia, come comunemente si crede, di un bravo giovane traviato da una ragazza vivace. È tutt'altro. È un grande amore. Manon e des Grieux sono entrambi due bambini che giocano. Lui rapisce lei dal convento e lei a sua volta rapisce lui quando si è fatto abate. Des Grieux fa molti pomposi discorsi sull'onore, ma la verità è che lui è entusiasta del gioco di Manon coi vecchi e i giovani ricchi, come è entusiasta della propria abilità di baro. Non la smetterebbe mai. Ti è venuto in mente che tuo figlio non sia la vittima della sua Manon, ma il suo complice? Forse la ragazza in questione è innamorata. Forse c'è una sfida tra loro, come tra Manon e des Grieux, e forse è una storia persino allegra. Se rileggi il romanzo, e te lo consiglio, vedrai che quel che te ne resta è l'agilità dell'azione e la verità dei sentimenti. Lui lo adori anche quando fa l'ipocrita, e lei anche quando combina guai, cioè sempre. Senza fronzoli, l'autore indaga e definisce il rapporto fra soldi e amore. E per loro l'amore è più importante dei soldi e dei lussi. Però, senza questi soldi e questi lussi, loro due non sanno vivere. Io vorrei invitarti, cara madre, a uscire dal cerchio stregato del tuo dolore di madre esclusa e gelosa. Vedi, non devi dolerti di essere per tuo figlio l'ultima lettera dell'alfabeto. Ma tutte noi madri lo siamo. Nel senso che siamo scontate come presenza. E per fortuna, almeno un punto fermo. Hanno tanto da fare per inseguire le ragazze, o farsene inseguire. E questa corsa non è per noi, Zeta. Per noi madri, voglio dire. Ognuno a suo modo l'abbiamo già fatta. E adesso la nostra parte è di non impedire la corsa degli altri. Sbaglierà tuo figlio? Ma chi non sbaglia, chi vive a fare? Ora, intendiamoci da madre a madre. Se mio figlio vivesse delle marchette della fidanzata, io farei il diavolo a quattro, non è che mi piacerebbe. Farei come te forse peggio. Lo considererei un fallimento e una bassezza, perché alla fine sono madre anch'io, cioè sbaglio. Con una sola differenza, non crederei che lei abbia la responsabilità di tutto. Me la piglierei con lui. Direi, ma questo era il tuo sogno, cretino? Però che ne sappiamo noi dei sogni dei nostri figli? E gli direi anche pateticamente, se lei potesse diventare una brava ragazza, ma sempre riferendosi al romanzo, ma no, quando viene deportata in America e finalmente diventa quella brava ragazza fantomatica che le madri augurano ai loro figli, che poi che vuol dire brava ragazza, che andrebbe bene per noi, no scusa ma che c'entriamo? Ebbene, questa Manon, quando appunto dicevo viene deportata in America, quando smette di giocare coi maschi e diventa saggia e lavoratrice, scompare come personaggio. Da quando ama De Grieux, da quando si è arresa a tutto l'amore di lui, la sua figura svanisce come quella di una piccola moglie. Che ne sappiamo noi dei sogni altrui? Pensiamo ai nostri, Zeta, che è meglio. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Cara Barbara, da ragazzina ero molto civetta. Mi piaceva moltissimo farmi ammirare. Lui aveva qualche anno più di me. Era già sistemato nell'azienda del padre e aveva fretta di mettere su famiglia. I miei genitori, per paura di vedersi sfumare quel bel partito, si sono lasciati contagiare dalla fretta. E così, appena finito il liceo, mi sono sposata. A 18 anni mi bruciava rinunciare alla mia vita di ragazza. Lui mi amava, ma non come avrei voluto io. Si era abituato alla mia bellezza. Io avrei voluto dei continui omaggi. Figli? Niente. Prendevo la pillola di nascosto. Lo ha scoperto e gli ho detto apertamente che la mia gioventù era finita anche troppo presto per rovinarmi la vita subito un'altra volta. Lui sessualmente si è raffreddato. Ho trovato un finto lavoro e mi sono fatta un doppio guardaroba, finalmente minigonne, ho due gambe bellissime, autoreggenti, eccetera. All'inizio andavo nei bar, al cinema, solo per farmi guardare. Provocavo gli uomini, finché uno mi ha fatto delle proposte. Io gli ho chiesto dei soldi, ci sono andata subito. È stato il primo. Ho avuto la prova che a letto ci sapevo fare. Quando ho rivisto mio marito mi scoppiava il cuore dalla paura. Pensavo appena mi guarda capisce tutto. Invece non ha capito niente e ha continuato a non capire. L'ho fatto nel corso di 7 anni ogni volta che è capitato e sempre per soldi in un'altra città. Adesso sento che quest'epoca della mia vita è finita. Ricomincio ad apprezzare mio marito. Anche a letto va meglio da quando lo tratto come un cliente. Lo chiama al nostro gioco. Mi mette dei soldi sul comodino. Non saprà mai che questo gioco l'ho fatto sul serio. Mi sono sfogata. Ora forse è il momento di fare un bambino. Ho solo una tremenda paura di essere scoperta, ma in fondo non credo che possa mai accadere. Quello che mi è successo è come se fosse successo a un'altra, in un'altra vita. Lucciola spenta. Gliene hai fatte tante a tuo marito che alla fine ormai gli vuoi bene? E lui, poveretto, ha scontato il peccato originale di averti voluto donna troppo presto, con quel matrimonio non solo precoce, ma io credo anche male assortito. Ti è sempre rimasta l'idea che, tagliandoti via una parte di giovinezza, abbiano messo la tua bellezza in gabbia. E tu, per vendicarsi, l'hai messa in vendita. E la tua bellezza è il centro di tutto. Io mi immagino te adolescente, e sei la più bella del gruppo, forse la più bella del quartiere, ma tu ti senti la più bella del mondo. Sei come un artista che conosca il valore della propria opera e voglia mostrarla. Lucciola freme, Lucciola è pronta per quell'adorazione che finalmente la placherà. Ma questa approvazione non arriva e Lucciola vive per la sua bellezza ignorata, sprecata per un uomo solo, che non è più nemmeno tanto abbagliato. Lucciola non vuole fare figli. I figli sarebbero l'estensione dei suoi carcerieri e imprigionatori come loro della sua bellezza. E lei provvede da sola. Si crea una vita segreta, che è falsa come l'altra. Gli uomini che incontra li fa impazzire di piacere. E per un solo scopo, perché le concedano l'applauso. I soldi. I soldi sono la prova del suo fascino. Sono il tributo del devoto al culto segreto che Lucciola sta fondando. I soldi la eccitano, non le persone. Non li porta in banca questi soldi, li nasconde. E conosce la vera lussuria. Contandoli, misura la propria sicurezza. E ogni banconota le dice: sei tu la più bella. E il marito? Ma che importa del marito? Lucciola ha imparato i segreti di chi pratica il sesso. Sa come bere, come guardare, perché il prescelto la desideri. Non fa la puttana di strada. Aborda gli uomini in modo sottile, anche se è evidente. Ogni volta che torna a casa, sente verso il marito una gelida superiorità e si attacca di più a lui perché è diventato la sua vittima, è diventato quello da ingannare, il suo alibi. Questo marito è così cieco che alla fine merita rispetto. Lucciola quasi si intenerisce sul marito. Gli anni passano, è sempre bellissima, però si immagina le prime rughe e ha questa saggezza da atleta. Si ritira nel pieno del fulgore. La sua sete di ammirazione smodata in qualche modo è stata saziata. La sua bellezza la voleva mostrare finché era perfetta, ma adesso trova comodo rientrare nei panni di una moglie borghese. Tu hai raccontato la tua storia e non ti sogni nemmeno di chiedermi un consiglio, e io non te ne darò, solo un commento. Povera lucciola, ma come sei fredda. Questa ossessione ha soffocato in te la vita. Il narcisismo ti ha fatto condurre due esistenze, entrambe apparenti. Io ti auguro di ritrovare qualche tenerezza tra le braccia di questo tuo marito così semplice. Un rapporto maniacale con la propria bellezza è un ergastolo. Non contare sull'età per liberartene, ma su un soffio di spiritualità, di attenzione agli altri. Ma a te, che non conosci, che non hai mai visto, perché non ti vedi tu, perché sei nascosta dal paravento della tua funesta bellezza. Eppure c'è un segnale d'amore nel tuo cinismo, il gioco di farti pagare dal marito, adesso che è il tuo unico cliente. È un gioco atroce, ma non è un oltraggio. Anzi, è un tentativo di metterlo in contatto con la tua verità, un timido, un contorto inizio di confidenza. La guardiana del faro. Quello che vorrei raccontare è un episodio poco conosciuto dell'incontro di due grandi personaggi. Uno è Giacomo Casanova e l'altro è Voltaire. Non si possono immaginare due creature più diverse. Due grandi seduttori, uno con l'amore, l'altro con la parola. E soltanto che c'è una grande differenza tra i due. Mentre Voltaire è l'uomo più famoso d'Europa, forse del mondo, almeno occidentale, Casanova invece fatica a campare la vita, fatica soprattutto a far riconoscere il suo ingegno. Voltaire va incredibilmente di moda. A Parigi tutte alla Voltaire. Cibo, motti, parrucche. Ogni tre secondi viene citata una sua frase, vera o finta che sia. Lui, il genio, vive nella villa neogotica Les Délices, Le Delizie, lontano dal pubblico che lo idolatra. Voltaire è il monarca assoluto di una piccola corte, alla quale impone comici silenzi. Quando dorme, si lega persino il becco alle anatre nello stagno. E fra queste disneyane precauzioni trascorre gli ultimi anni. Voltaire è viziato dall'adulazione, è stremato dall'adorazione di sé, ma ha un punto debole, uno solo, il suo amore più acerbo, l'ultimo, la nipote Marie, che maltratta costantemente per mascherare un sentimento assoluto. L'unico sentimento che qualche volta gli faccia dimenticare la sua vanità crudele. Governante, economa, bibliotecaria, apparenze. Marie è soprattutto prigioniera d'amore. Se qualcuno più giovane e meno bisbetico gliela portasse via, nessuna estasi filosofica potrebbe mai ripagarlo. Un giorno, non invitato, arriva alle Delizie Giacomo Casanova. Ha 35 anni, finora ha sempre perduto. Bisogna immaginare poi i 35 anni di allora, non i 35 anni di adesso che ancora sono tutti ragazzini. A 35 anni allora un uomo era maturo e quello che aveva fatto, era difficile che la sua vita avesse una svolta. Finora ha sempre perduto. Il suo talento non è stato riconosciuto, per questo dovrà aspettare la morte quando le sue memorie diventeranno uno dei libri più letti della terra. I suoi abiti, i suoi modi cominciano a portare i segni della sconfitta. È arrivato un punto in cui un maggior prestigio gli gioverebbe. Quelle che in gioventù furono le sue prove ardimentose, per un uomo maturo con la borsa vuota, si traducono in mancanza di credito. Agli occhi del mondo Giacomo è solo un oscuro giramondo dal titolo finto. Infatti si fa chiamare Cavaliere di Saint-Gaul e non può contare su quell'ombra di successo che mette un po' al riparo dalla volgarità. Casanova arriva in giugno e arriva al galoppo, coronato di papaveri e spighe come un giovane dio pagano. Ed è sicuro che Voltaire lo riconoscerà a colpo d'occhio. Giacomo arriva al galoppo con una grande speranza che il vecchio Voltaire, il vecchio genio, diventi il suo protettore. Casanova è convinto che un uomo d'ingegno come lui dovrà riconoscere il suo. Povero Giacomo, le lezioni non gli sono bastate, non gli basteranno mai. e della sua grandezza. Però in questo suo arrivo il suo cavallo fa troppo rumore. Queste ingenuità vitalistiche alle delizie fanno ridere, come parlare di Dio o del diavolo. Appena si incontrano, l'antipatia fra il vecchio e il giovane scatta immediata, come una scintilla d'amore. Questo filosofo aristocratico rinsecchito è subito geloso e si ripete che Marie, suo nipote, ha una testa troppo fine per interessarsi a quell'arnese di baraccone. Però lo teme. È giovane, è bello. E così, dal primo momento, lo deride. E dice ai suoi cortigiani, questo cavaliere di Saint-Gaul, che ha opinioni su ogni sorta di problemi universali, non è ancora riuscito a risolvere quello più elementare, ovvero mettere insieme il pranzo con la cena. Lui invece, povero Voltaire, che avrebbe i mezzi per sfamarsi, ormai con gli anni ha uno stomaco da povero ed è costretto a privarsi di tutto. Il veneziano gli ha portato in dono una fiasca di vino prezioso e Voltaire sdegnosamente lo rifiuta. Ma come, non sa la regola? Almeno informarsi prima di venire ospite, no? Alle delizie niente vini e niente cibi piccanti. Poiché il padrone di casa è condannato a mangiare in bianco e a bere acqua, gli ospiti per rispetto fanno altrettanto e sono banditi i cibi saporiti e soprattutto ogni bevanda spiritosa. Basta lui, sussurra un cortigiano, il più grande spirito di Francia, battuta che non fa ridere, ma tutti ridono. Casanova però ammonisce Voltaire e gli dice: nel vino c'è un dio, fate male a tenerlo lontano. Ah sì, e quale? Zeus, Allah, Anubi, ce ne sono tanti. Già, dice pensoso Giacomo, voi non credete in Dio. È una grande gaffe, viene subito rimbeccato da Voltaire. Falso, non si crede in ciò che è evidente, ma la natura stessa dimostra l'esistenza di un essere supremo. Voi siete della setta cristiana, vero? Beh, nel vostro Dio che fa i miracoli, no, non ci credo. E Voltaire si lancia in un pezzo di bravura. E Marie? Perché non ride Marie? È distratta, sta guardando quel buffone e non si accorge dei moti dello zio. Per lui è una grande amarezza vederla trascinata dalla forza vitale di questo straccione senza patria né lettere. La gelosia si maschera da duello verbale. Casanova ha capito che non è aria e rinuncia subito alla sua illusione. Capisce subito che non ha trovato un protettore, ma ha trovato un nemico. E sa che quello sarà il suo primo e ultimo giorno nella casa di Voltaire. Sa che all'alba dovrà andarsene. Però, ormai che è lì, almeno cavarsela con onore. E lancia la sua sfida. Promette che prima di andare via fornirà a Voltaire la prova tangibile dell'esistenza di Dio. Non quell'architetto dell'universo del deista Voltaire, ma il suo Dio. Il Dio cristiano nel quale fervidamente crede, al quale crede di dovere la vita e l'ingegno. Voltaire sorride appena, velenoso, e invano cerca lo sguardo di Marie, mentre Casanova ricorda e inventa prodigi. A sentire lui c'è un miracolo in ogni angolo. E, alludendo alle bisacce col vino che nessuno scudiero si è curato di togliere dal cavallo, dà a intendere che forse quel bagaglio lo aiuterà. Voltaire lo ammazzerebbe. Nel Tempio della Ragione questo zingaro allampanato ha portato a un fremito mistico e beffardo. E allora anche i più devoti fra i cortigiani non sanno nascondere il piacere di ascoltarlo. Nessuno ha bevuto. Eppure le parole di Casanova accendono le guance come il vino che Voltaire ha rifiutato. In questo salone estivo i duellanti si affrontano. Fanno a chi estrae per primo il pensiero, il concetto o la calunnia. Sugli specchi dorati tremano i pioppi. Marie è distratta. Lo zio, ferocemente innamorato, getta la maschera dell'amabilità dialettica e torchia Giacomo con un interrogatorio di erudizione. Ma l'altro ne sa tante, rilancia. Anche lui a sua volta interroga Voltaire, si mettono in difficoltà a vicenda, finché, sdegnosi quasi nello stesso momento, dicono: «Signore, non rispondo a voi della mia scienza». Poi però corrono tutti e due, oggi sarebbero corsi su internet, all'epoca corrono zitti zitti in biblioteca di nascosto per tappare velocemente la truffaldina, la falla che è stata scoperta dall'avversario. Ed un tratto, spostando un tomo nel doppio scaffale, si trovano faccia a faccia. L'uno scopre l'altro e scoppiano a ridere. Fuori dall'occhio del mondo, i duellanti si incontrano nelle regioni della testardaggine, dove sono entrambi sovrani. La disputa è per Voltaire troppo accesa, l'età gli pesa e alla fine si addormenta, sfinito, a metà di un sermone contro il vino da cui traspare la sua nostalgia. La parrucca gli scivola via. Giacomo, che è grande e forte, solleva questo piccolo vecchio pelato tra le braccia e lo mette a letto. Ora che Voltaire non può sentirlo e non si sente più giudicato dal nemico, abbandona subito il linguaggio mondano e anche il francese elegante e gli parla in veneziano. Gli parla come una buona donna del popolo che ami un bambino geniale e cattivo. Gli versa la pozione sul comodino con un gesto di madre, soffia sul lume. Voltaire dorme. Casanova torna dagli ospiti, da Marie, che lo aspettano con una sorta di contenuta febbre. Si aspettano qualcosa da lui. E allora Giacomo, con gesti silenziosi, apre infine le famose bisacce e la festa comincia. Dentro ci sono 10 fiasche del vino che il padrone di casa non ha voluto. Per tutti, ma specialmente per Marie, quella cerimonia è un tradimento gravissimo. Ognuno tende il suo bicchiere, come un congiurato. Il rumore lieve del vino che scorre non riesce a turbare il sonno dell'uomo più spiritoso di Francia, ma che forse invece è sveglio, forse sa ogni cosa, e si rannicchia nel letto, per saggezza o perché è vecchio, senza parrucca, e si vergogna. Quella notte alle delizie, Casanova diventa il signore del luogo. Certo, signore da burla, ma è per burla che si accosta a Marie, per burla le sfiora la mano, ed è per fare dispetto allo zio che la chiama colomba filosofica, ed è per vendicarsi che la bacia e le giura che la porterà via, e le sussurra all'orecchio di essere più grande dello zio. Fra 100 anni si saprà chi ha vissuto, se lui o io. Mattina alle delizie. C'è questo silenzio reverente nel parco, in omaggio di Voltaire, e Voltaire si sveglia sereno. Sa che l'ospite è partito. Di nuovo tira un sospiro di sollievo, si ritrova di nuovo re indiscusso. Adesso nessuno vorrà più contrastarlo, né oserà guardare Marie. E Marie? Ma ci sarà tanto tempo per farle pagare quei suoi sguardi allo straniero. Quanti veleni in forma di parola potrà somministrarle su quel chiacchierone che venne una mattina di giugno promettendo ogni sorta di prodigi ed è ripartito come uno sciocco, come un ladro, senza che nessuno se ne accorgesse. Arrivano i primi intimi, i primi cortigiani, e con loro spaccia garrulo la prima battuta di trionfo. Ma come? È andato via senza aver dimostrato l'esistenza del suo dio? Peccato! Ci facevo conto! Mi avrebbe tolto tante incertezze. In quel momento, nella stanza entra Marie, trasfigurata. Tutti la fissano. C'è una grande novità. Marie è diventata bella. Ha i capelli sciolti, le guance accese, una donna in fiore. È sparita con la sua aria prigioniera e mesta e ha in mano una rosa piena di rugiada. La lascia cadere sulla coperta dello zio. Voltaire tace. Stringe la mano della nipote nella sua mano gelida di vecchio. Avido, incredulo, respira il profumo della creatura nuova che il cialtrone ha fatto rinascere. Una lacrima cade sulla mano di lei, una lacrima di Voltaire. Il gelo che segue un prodigio. Nessuno lo ha mai visto piangere. Intanto, nel bianco del viale, la traccia di un cavallo. Casanova ha lasciato dietro di sé il miracolo annunciato. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Mia sorella non mi ha mai perdonato di essere nata, e nemmeno ai nostri genitori. Lei aveva già 5 anni, io le volevo bene, ma lei non si è mai intenerita. Più ero affettuosa, più mi guardava come una rivale, così alla fine ho rinunciato a toccarle il cuore. Mi ha sempre conteso tutto, prima i giocattoli, poi i ragazzi, però è falsa e mi frega col sorriso. È gelosissima, anche se è molto più bella di me, ha un corpo da urlo e 2 tette aggressive, per strada si girano. Io sono innamorata da 1 anno di un ragazzo ultra timido. Finalmente, dopo un lungo corteggiamento, l'ho persuaso a venire da me. Ascoltiamo musica, di tutto, da Eminence a Chopin. Lei entra ogni 10 minuti con una scusa e gli sventola sul naso la sua quinta misura naturale. La prenderei a calci, ma subisco, per non fare la figura della iena davanti a lui, sempre così delicato. Pesci, 1988. Beh, ma se ne andrà, no, il delicato, a una certa ora. E allora nessuno ti impedisce di acchiappare la sorella e di dirgli: senti, ma lo sai che quando entri mi viene voglia di pigliare a calci te, le tue tette smisurate, la tua mania di rovinarmi tutto? Io credo che a una prepotenza implicita bisogna opporre una chiarezza autorevole. Oppure magari continuare a fare quella cosa che provi a fare da quando eravate piccole, cercarle per un'ultima volta il cuore, magari frugandola, perché da qualche parte ce lo deve pure avere. Forse vi potreste intendere, perché vi somigliate. Anche tu sei gelosa pazza e non finirà mai. Sarete vecchie come Noè e continuerete a litigare per una minestrina, un ricordo, una flebo, una dentiera. Ho qui davanti il libro di Marco Fabio Apolloni, che si chiama Er puttaniere arcadico e altri sonetti, uscito nel 2006 con Ponte alle Grazie, in un dialetto romanesco dove si misura col belli, beh, perché Apolloni è fatto così, ha già avuto la sfrontatezza di trattare alla pari pure Stendhal e Gogol. È tante cose Marco Fabio Apolloni ed è anche un po' un bullo romano. È uno studioso d'arte, un antiquario, uno scrittore, un poeta. Le sue notizie su Google sono scarne. Da conto degli studi, dell'attività e della sobrietà, e visto come si presenta in quella schedatura imbarazzante che è sempre la presenza in rete, ci si chiede: ma chi è davvero Marco Fabio Apolloni? Bah, lo sa il diavolo, come diceva sempre Gogol, e cito Gogol non a caso. Però, in mezzo a tanta prudenza, una cosa se la lascia scappare, la più inquietante, la sua faccia. Su Google c'è una sua foto. Per un illusionista e un tessitore di trame come lui, la cosa non può essere casuale. Se ha lasciato una traccia così compromettente, c'è una ragione. Questa foto è un avvertimento che ci esprime tutta la sua diffidenza. Oh, mamma mia, pare un crotalo, eh. Sembra che dica: tu vuoi conoscere me? Ma tu lo sai chi sono io? Io sono il mago Houdini dei percorsi imprevisti. Io sono il travestimento. Quella foto è come nel Don Giovanni, quando lui canta mentre sta scappando da Donna Anna, che lo insegue strepitando, no? Dopo questa azionaccia che lui ha fatto, questo stupro che si è fatto passare per un altro, e lui canta: donna folle, indarno gridi, chi son io? Tu non saprai. Questo è Marco Fabio Apolloni. E poi, mentre ti scruta con questa insolenza ducale ma anche un po' malandrina dietro questi occhiali rotondi, dice anche: io non mi fido di nessuno e di me meno di tutti. Non provare a entrare in contatto con me, io non ho forma. E se provi a toccarmi, divento nebbia, come l'ombra della madre di Ulisse all'inferno. Io in un momento mi trasformo in un dandy, in un affarista, o in qualunque grande scrittore se mi gira. Perché io posso, sapessi quanto posso con la scrittura. Posso tanto che mi malinconisce, perché mina il mio scetticismo. Io non posso scrivere che prendendomi in giro, altrimenti guai. Cioè, ma siamo matti, dice la foto di Apolloni, la letteratura. No, se ci credo mi crolla tutto. Cioè, avrei una fede? Addio cinismo. Non mi toccate la coperta di Linus della mia totale miscredenza. Se no, torno ai 3 anni e scoppio a piangere come allora. E così la tiene a bada, la letteratura. La tiene a bada come una donna troppo amata. E la visita così, con prudenza, ogni qualche anno. Oh, e poi la visita giocando. Cioè, lui con le trombe dice: io scherzo, se mi prendete sul serio siete scemi. E quindi scrive Il mistero della locanda Cerny, per gioco, dove c'è questo grande mago, il mago Bosco, che poi è lui. E gli scappa un libro strepitoso, per potenza e per umorismo. Questi generi mirabilmente mischiati, con riferimenti così raffinati che ci vorrebbe una biblioteca, ma godibile anche per gli ignoranti come noi, che gustano il racconto. In questo libro Marco Fabio vorrebbe, nelle intenzioni dichiarate, vorrebbe fare un pastiche imitando lo stile di Stendhal o di Gogol, e invece diventa loro. Accidenti dell'arte. Il libro gli scappa di mano e quegli autori irrompono in lui, travolgono la diga delle sue prudenze e le sue maschere, che dovrebbero nasconderlo, ce lo rivelano come un romantico fottuto. Diventa anche Gogol e le sue magie diventano demoniache. Oh, nella vita, oltre alla foto, è un giovanottone di grossa corporatura, un aristocratico romano di metà 800, sempre pronto a fare botte. Quando ancora non lo conoscevo, certi amici comuni mi parlavano di lui e io chiedevo: ma com'è Apolloni? E loro: è ricco. Ma io dicevo: scusate, ma com'è? Ma non c'era verso, eh? Mi dicevano solo che era ricco, cosa che lui sdegnosamente nega, tipico dei ricchi peraltro. Anche se fosse vero, però, Apolloni è più interessante di così. È uno, per esempio, che può animare irresistibilmente una cena o rovinartela senza riparo, insultare tutti dopo qualche bicchiere, con una voluttà, con un dispetto infantile, con una cattiveria che ti verrebbe da acciaccarlo come una mosca. Però prima questo, poi c'è un dopo. Adesso Apolloni ha incontrato una donna che ha sgominato la sua diffidenza. Da quando Marco Fabio Apolloni si fida davvero di una persona, la sua simpatia ha esornato. È un piacere vederlo. No, non viene più da acciaccarlo come una mosca. E chiunque sia Marco Fabio Apolloni, io lo sento fratello, perché è sinceramente, romanticamente, incontenibilmente pazzo. E per quanti calcoli possa fare, essendo come ogni mago anche uno stratega, la sua pazzia vincerà sempre e continuerà a costeggiare il baratro. E poi fa ridere nei libri, fa ridere nella vita, magari non adesso che lo intervisteremo, perché dopo una presentazione così starà in campana come non mai. Marco Fabio, ci sei? Sono qua. Vuoi commentare? Come cosa devo commentare? No. Chi è più mago qui? Ci leggi uno dei tuoi sonetti belliani? Tu sai che il mio preferito è "Dove vanno li basci dopo morti"? Questo si chiama "L'anima dei basci", che va pronunciato con la sh, ovviamente. Dove vanno li basci dopo morti? Forse all'ombra di qualche cimitero, un lume di memoria fa da cielo, col nome e con la data, sono sepolti. Oppure sono cadaveri contorti, tutti buttati giù nel fosso nero, tutti una pappa, tutti che davvero non li conosci più se la rivorti. Povere lingue in bocca trapassate, siete contente poi d'aver vissuto? Vi ricordate più chi va succhiate? La vita ci durò solo un minuto, però fummo felici d'essere nate e mo d'essere in piante da un cornuto. Senti, ma ce ne legge anche un'altra? Come no? C'è una su un mito che a te ti è caro, che è quello del Minotauro. Si chiama "Le tristezze del labirinto", labirinto con due B. Sor bastardo del toro e de una vacca, l'incrocio tra una bestia e una puttana, e faccio una vidaccia che me stracca a furia de magnà la carne umana. Dentro una stalla che è tutta bislacca, che mi tocca girare una settimana per ritrovare sto cazzo de baracca con un po' de paglia che mi fa da tana. Mannaggia chi inventò sta architettura tutta de corridoi senza tetto, solo per darmi a me questa tortura. Che se potessi esci, me lo prometto, me mangerebbe l'erba de pastura. E no, questa tegnese giovinetto. Ce n'hai un'altra? Allora, questa sì, ti si potrebbe anche adattare. Si chiama "Artelaio". Quando conto li fili de sta lana che de notte me balla avanti all'occhi, basta un tarlo che gratta nella tana che me sento mancare negli ginocchi. Se mai me capitasse che me tocchi de nasce un'altra volta, giuro a Diana che me possa cecà, che me sconocchi, vorrebbe da rinascere puttana, me fregherebbe di disfasta trama aspettando quell'uomo benedetto che so 20 anni già de vita grama e l'avrebbe passati tutti a letto ogni notte con uno che me ama de sto branco de porci maledetto. Senti, ce n'hai un'altra ancora? No, lo so che ce n'hai tante, ma una... Una del Vangelo, qui chi parla è il legionario del Sabato Santo, cioè un giorno prima di Pasqua, ed è lui che parla in prima persona. Te pare giusto sta tutta la notte a guardia de sto masso benedetto per colpa di quel sacco d'ossa rotte e il giorno della Pasqua de precetto? Però finché so fisso de picchetto voglio vede chi tocca queste grotte, s'azzardina a sortì fuori dal ghetto che li risbatto dentro con due botte. Disse, tastò sul petto la corazza, guardò la luna,